Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti. Oggi di nuovo ci rivolgiamo alle mamme e ai papà in ascolto. Perché? Lo ricorderete, il 28 febbraio è scaduto il termine per le iscrizioni a scuola, occasione in cui a molte famiglie viene richiesto, è stato richiesto, il pagamento di un contributo scolastico per, così si definisce, l'arricchimento dell'offerta culturale e formativa della scuola. Il contributo, come ha confermato anche una recente circolare del Ministero dell'Istruzione, è da considerarsi assolutamente facoltativo in ragione del principio di gratuità della scuola dell'obbligo e non può essere imposto. Anche quest'anno però il portale scuola.net, scuola con la K, sta raccogliendo molte denunce da parte di famiglie che fanno notare come in molti casi il pagamento diventa sostanzialmente obbligatorio e addirittura molte scuole sembra che stiano esercitando pressioni molto insistenti per chi non versa questo contributo ritenendolo appunto facoltativo. Salva Danaio dedica la puntata oggi a questo tema, spiegando come comportarsi in caso di richieste di questo tipo da parte della scuola, che secondo noi sono scorrette. Poi è chiaro che questo denaro serve alla scuola per portare avanti la propria attività, però il tema è se non è obbligatorio e se la famiglia non ce la fa a sborsare questa cifra, perché non stiamo parlando di 20 euro, stiamo parlando di cifre che vanno dalle 150 alle 300 euro chieste dalla scuola. E visto che questo versamento va fatto in concomitanza con l'iscrizione, visto che per fare l'iscrizione già servono dei soldini e durante tutto l'anno ne servono tanti altri per mantenere a scuola i propri figli, e allora ci chiediamo appunto come si può fare a dar ragione a tutti in questa discussione. Tra l'altro bisogna informare anche gli ascoltatori che c'è la possibilità di ottenere l'agevolazione fiscale in caso si paghi questo contributo. Vi spiegheremo a quanto ammonta, come fare per richiederla. Intanto però 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri racconti. Noi ce ne aspettiamo tanti questa mattina, come sempre quando parliamo di famiglia e di figli. La vostra attenzione è sempre molto alta, così come i vostri contributi telefonici, appunto le vostre testimonianze, per cui anche stamattina ne aspettiamo tante. E potete anche scriverci al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, su Facebook il nostro profilo è il nostro profilo è salvadanaio-radio24, siamo anche su Twitter @salvadanaio24. Raccontateci se avete pagato quest'anno il contributo scolastico, quanto vi ha chiesto la vostra scuola, quanto è stato insistente il preside in questione e appunto come è andata a finire, evidentemente, per quello che riguarda la vostra esperienza. Con noi questa mattina sentiremo Daniele Grassucci, responsabile delle relazioni esterne di scuola.net, che peraltro è già collegato telefonicamente. Daniele, buongiorno, bentornato. Grazie, buongiorno a te Deborah, ben trovata, e soprattutto un caloroso buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie anche a Giorgio Rembado, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Preside, buongiorno. Preside, presidente contemporaneamente, immagino. Buongiorno. Certo, buongiorno a tutti. Buongiorno e grazie. Poi ci collegheremo anche con il Ministero dell'Istruzione, nella persona della dottoressa Lucrezia Stellacci, capo dipartimento istruzione per il MIUR, e più tardi, per tutti gli aspetti di carattere fiscale, con il nostro Luca De Stefani. Adesso la borsa. È una bella giornata anche in borsa. Oggi Milano guadagna più di un punto, recupera un po' di quanto ha perso ieri. Ieri ha perso l'1,7%. Oggi a tirare la volata Piazza Affari, Generali, ruggisce il Leone di Trieste, più 7% in questo momento, perché il gruppo ha comunicato una grande pulizia di bilancio nel 2012. Tra l'altro è stato confermato anche il dividendo a 20 centesimi di euro, lo stesso livello dell'anno precedente. L'utile netto della compagnia triestina segnato lo scorso esercizio è stato di 90 milioni di euro contro gli 856 del 2011, perché le svalutazioni comunicate questa mattina ammontano ad 1 miliardo e 700 milioni di euro, cifre pazzesche ma che vengono apprezzate dal mercato. Tutte le partecipazioni appunto di Generali sono state messe in bilancio con i valori corretti, quindi svalutazioni che vengono apprezzate dal mercato, e peraltro la performance di Generali porta con sé anche la performance dell'azionista importante, che Mediobanca guadagna il 4%. 4,80%. Telecom più 2,35%. L'agenzia di rating Fitch ha confermato il giudizio tripla B con outlook negativo. Mediolanum più 2, Prismian più 1,86%, mentre dopo i conti pubblicati ieri UbiBank ancora è penalizzata dal mercato e perde il 4%. Wall Street ieri è andata di nuovo bene, il mercato americano ha portato a segno la più lunga serie positiva con i rialzi delle ultime settimane degli ultimi 17 anni. È davvero una performance silenziosa quella che Wall Street sta mettendo a segno, perché non è che se ne parli poi molto, ma in ogni caso record su record per il mercato americano, che stamattina fa bene anche all'Europa. Lo spread fra BTP e Bund invece è un po' altino e siamo a 321 punti base. L'ho ricordato prima anche nel giornale radio, lo ribadisco, il London Stock Exchange, che è la borsa inglese che controlla anche la borsa italiana, oggi dona le commissioni di negoziazione in beneficenza, è il Charity Day in borsa, per cui insomma mi piaceva anche farvelo sapere. Non c'è solo la Tobin Tax, che è un nuovo onere introdotto appunto recentemente sulle attività di intermediazione appunto finanziaria, ma c'è anche oggi un po' di beneficenza. Detto questo, per la borsa è tutto, andiamo al tema di oggi: scuola, contributi volontari richiesti alle famiglie, ma volontari tra virgolette. Il 28 febbraio scorso scadeva il termine per le iscrizioni al prossimo anno scolastico attraverso una procedura online. Insieme a questo adempimento, anche quest'anno è arrivata puntuale a molte famiglie la richiesta da parte delle scuole del pagamento di un contributo, finalizzato, ad esempio, all'arricchimento dell'offerta culturale e formativa. È una richiesta lecita nell'ambito dell'autonomia scolastica e si tratta di un contributo facoltativo che non pregiudica la gratuità della scuola pubblica. Sono molte però, anche quest'anno, le denunce che sottolineano come in molti casi la richiesta sia inoltrata in modo poco chiaro, lasciando intendere l'obbligatorietà del versamento del contributo e in alcuni casi la necessità di versare la somma affinché l'iscrizione del ragazzo vada a buon fine. Episodi molto gravi, se confermati, che hanno reso necessaria anche un'apposita circolare del Ministero dell'Istruzione, pubblicata il 7 marzo scorso. Il Ministero ha ribadito, in seguito alle numerose lamentele e segnalazioni, che considerare come obbligatori questi contributi in sede di iscrizione è una prassi irregolare, che non rispetta il principio di obbligatorietà e gratuità dell'istruzione. Le richieste di pagamento, a seconda della scuola, possono arrivare anche ad alcune centinaia di euro, cifre importanti per il portafoglio delle famiglie, già messe alla prova in diverse occasioni in questi anni di crisi. 800 24 0024, chiamateci al numero verde, raccontateci cosa succede nella scuola dei vostri figli. Vi leggo però già qualche messaggio. Ho pagato 130 euro, Emanuele ci racconta, liceo classico, non sapevo che fosse un contributo facoltativo. E poi Roby di Vicenza: a noi è stato venduto come contributo all'assicurazione infortuni 180 euro, prima liceo, e poi dice: e dai, come si fa a non darli, ci siamo sentiti in difetto se non l'avessimo fatto. Ma questo è sicuro ed è ovvio che la scuola li utilizza finalizzandoli a determinate attività. Il problema è che o non si fa nessuna circolare su questo argomento, non si parla di questo argomento, o la scuola chiede questo contributo e non si legifera a questo proposito, oppure chiaramente le famiglie che non possono pagarlo non le si può colpevolizzare o penalizzare come hanno fatto appunto determinati presidi, perché qualche testimonianza su questo l'abbiamo letta sui giornali. Adesso ci vado con il presidente Rembado. Prima però Daniele Grassucci, volevo sentirti Daniele un attimo su anche le testimonianze che abbiamo già cominciato a raccogliere, che sono un po' quelle che immagino hai raccolto tu per il tuo portale appunto. Il tema è proprio questo, non è che la famiglia non riconosce l'importanza di darlo, è chiaro che si sente in difetto qualora non potesse, e però se è volontario che cosa dobbiamo fare? Hai toccato il tema. Io ritengo che in questo momento anche di grave difficoltà dello Stato per garantire degli standard qualitativi elevati, diciamo, la scuola abbia bisogno di questo contributo da parte delle famiglie. Daniele, scusami una cosa, sei ad un viva voce per caso? O... No, non sono ad un viva voce. No, perché ti sei... magari adesso intanto ti lascio completare il discorso, poi riproviamo a fare la telefonata perché non è ottimale. Dici. Sì, no, dicevo, appunto è normale che appunto lo Stato possa chiedere un aiuto, un po' come succede anche per la sanità, si paga un ticket per usufruire di certi servizi, però l'istruzione è un servizio un po' particolare perché è anche un investimento che si fa sul futuro, quindi in qualche modo andrebbero tutelate le famiglie, soprattutto quelle più deboli, perché è chiaro che un contributo richiesto con la stessa cifra uguale per tutti non è in qualche modo in linea con quello che è lo spirito comunque di quella che è poi di fatto un'imposta, cioè un'imposta deve essere proporzionale al reddito, in questo caso si chiede indistintamente a tutti e per paura che di chiarificare nella natura, cioè per paura di dire che è volontario, ecco, si costringono poi tutti a pagare, quindi anche quelli che sono in difficoltà. Io ho ricevuto moltissime segnalazioni in questo senso, soprattutto per quelli, ad esempio ho due casi di studenti lavoratori o studenti disoccupati che magari a 25, 26, 27 anni hanno deciso di ritornare tra i banchi di scuola per prendere un titolo di studio e darsi un'ulteriore possibilità lavorativa e che si trovano costretti dalla scuola a pagare delle cifre che da disoccupati oppure da studenti lavoratori che si devono mantenere non sono alla portata. Ah certo, poi sicuramente ecco fanno questo sforzo, addirittura si rimettono sui banchi di scuola a 25 anni, immagino già con che lucidità anche mentale dopo che sei rimasto fuori e ti ritrovi tutte queste sorprese che certamente non immaginavi. Tra l'altro noi tra poco sentiremo anche la dottoressa Lucrezia Stellacci, come dicevo prima, capo dipartimento istruzione per il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, e anche sulle portale scuola.net c'è un'intervista, anche Daniele ha interpellato la dottoressa Stellacci se già le famiglie vogliono andare a vedere che cosa pensa il Ministero di tutto questo. Allora, dottor Rembado, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, le chiedo un commento ovviamente generale su questa situazione e poi le chiedo anche un commento più mirato rispetto alla ricostruzione che è stata fatta per esempio su quanto è accaduto in una scuola di Treviso, pare un istituto tecnico, è successo veramente, una mattina di qualche settimana fa una bidella è passata per le classi della scuola durante l'orario di lezione, ha chiamato un elenco di alunni che dovevano presentarsi appunto in aula magna, circa un centinaio di ragazzi, li hanno portati lì, appunto il preside li stava aspettando e questo preside ha detto molto chiaramente che se entro tre giorni non avrebbero versato questo contributo sarebbero state chiamate le famiglie, con tutta un'altra serie anche di minacce sulla ripercussione rispetto a questa scelta, anche sulla certificazione del rendimento scolastico successivo. Allora, sono assolutamente certa che sia un caso isolato e speriamo che sia l'unico in tutta Italia, almeno nelle modalità, poi magari qualche altro preside sarà anche altrettanto dirompente nella richiesta, ma che ne pensa? Partiamo dalle questioni più generali, poi arriviamo al caso che lei stava prospettando. Le questioni più di carattere generale sono, a mio avviso, molto semplicemente due. Una è già stata detta e la condivido pienamente dall'intervento che mi ha preceduto. Teniamo conto del fatto che la scuola ha bisogno di queste risorse perché è stata fortemente depauperata rispetto alle esigenze di finanziamento per le spese generali di funzionamento. Questo è il primo punto dal quale partire. Naturalmente va ribadito in ogni occasione, e qui lo stiamo facendo in tutti i modi nel corso della trasmissione, ma ovviamente va ribadito nell'ambito delle singole scuole e all'atto dell'iscrizione nei confronti delle famiglie, che da una parte la richiesta di contributi volontari, quindi è già stato detto, non costituisce un abuso, d'altro lato deve essere chiaro che sono volontari e che quindi ovviamente non volontari tra virgolette, come qualcuno diceva prima, mi pare, nell'avvio di questa trasmissione, volontari nel senso che chi può e chi vuole li dà, chi non può e chi non vuole non eroga alcun contributo. Tra l'altro, dal momento che il contributo non è un'imposta, va da sé che non può essere soggetto a criteri di progressività, perché appunto l'autonomia scolastica non ha il potere impositivo e quindi può solamente chiedere contributi alle famiglie o ricevere donazioni e liberalità. Io aggiungerei, prima di passare al caso che lei diceva, cosa bisognerebbe fare da parte della scuola per agire correttamente, molto brevemente. Mi pare che si possa individuare queste fasi. La prima è quella della previsione e della condivisione su come investire le risorse e per la loro conseguente quantificazione. Da questo punto di vista, in questo ambito, in questa fase, è indispensabile l'ascolto di proposte e di pareri da parte dei genitori, prima di predisporre il POF, che è il piano dell'offerta formativa. Poi c'è una delibera del consiglio di istituto, e questa è importante perché c'è una condivisione da parte di tutte le componenti scolastiche, la corretta informativa alle famiglie in merito all'utilizzo. Esatto, aspetto al quale sarei arrivato tra poco, quindi la famiglia, la scuola deve... Non volevo anticipare. No, va benissimo, la scuola deve comunicare come intende utilizzare questi soldi. No, sa perché, preside, glielo chiedo? Perché ho letto da qualche parte che per esempio le scuole le utilizzano e giustificano questo utilizzo con il dire servono per esempio per le gite scolastiche durante l'anno, cosa che non è vera, perché poi quando arriva la gita c'è un versamento aggiuntivo, lo sappiamo bene, anche se non ho figli, però insomma... No, non parlavo di gite scolastiche. No, non lo diceva lei, non lo diceva lei, l'ho letto da qualche parte che qualche scuola giustifica questa richiesta, per esempio, con questo. Quindi deve la scuola all'inizio, ti chiedo 150 euro, sappi che le utilizzerò in questa maniera, queste risorse. Esattamente. Nell'ambito dell'informativa alle famiglie bisogna non solo chiarire il criterio della volontarietà, ma anche è importante sottolineare che c'è la possibilità di una detrazione, anche questo è un elemento di informazione utile e necessario da dare alle famiglie. Per concludere con la rendicontazione finale, quindi queste sono le fasi necessarie perché il contributo utile e necessario in sé abbia tutti i crismi della legalità. Tutti per i presidi che conosce si comportano in questa maniera, com'è? Preside, voglio dire, lei immagino che avrà la possibilità di andare a fare un po' un monitoraggio, è chiaro che le scuole in Italia sono tante, non le potrà controllare tutte, ma lei sa se tutti i presidi si comportano secondo questi criteri che ci ha indicato? Con 9.000 scuole non è facile poter dire se tutte 9.000 si attengono a questo decalogo, che non è un decalogo perché sono solo 4 le fasi che prima indicavo, ma è evidente che ci possa essere qualche situazione eccezionale che non so quantificare, anch'io lo sento, lo leggo dai giornali, insomma, prima di tutto, e quindi il caso per esempio Califazia di Treviso è ovvio, c'è poco da dire nel commentarlo, è ovvio che è un caso che assolutamente non si può condividere, né per la denuncia in classe attraverso un elenco di alunni che non hanno, le cui famiglie non hanno dato il contributo alla scuola, né tantomeno fissando un termine per il versamento del contributo, né ancor meno, cioè è un crescendo di negatività nel far prospettare il pericolo di ripercussioni sul rendimento. Insomma, ovviamente tutte le cose che sono state dette prima sono negatività che vanno tenute del tutto fuori da questo tipo di argomento e dalla gestione del contributo volontario e dalle mura della scuola. Sicuramente condannate, allora, prima di mortificare i ragazzi, anche insomma pensiamoci un attimo. Volevo sentire, prima di andare in pausa, magari molto rapidamente, la prima testimonianza di oggi, visto che abbiamo scomodato una scuola di Treviso ed è trevigiana appunto la nostra prima ascoltatrice. Luisa, buongiorno. Buongiorno a lei, Deborah, e a tutti gli ascoltatori. Faccio parte in qualità di genitore del consiglio d'istituto del liceo Duca degli Abruzzi e rispetto diciamo al protocollo appena enunciato dal suo ospite, il nostro dirigente li osserva diciamo con la massima trasparenza. Ottimo. Non solo i dati di bilancio vengono ripetutamente verificati anche in consiglio d'istituto, quindi con una massima trasparenza. Non vorrei sono estranea alla cosa, nel senso che non l'ho neanche approfondita leggendola, che quel preside menzionato avesse in realtà sollecitato il versamento delle tasse obbligatorie a favore dell'Agenzia delle Entrate e non della non scuola credo, obbligatorie no, no. per le classi quarte e quinte. Grazie Luisa, giustamente lei ha fatto anche bene a sollevare un altro un dubbio, perché è giusto, credo che Daniele Grassucci, poi ce lo faremo raccontare, per la verità abbia interpellato questo preside, credo che la questione sia proprio invece legata al contributo scolastico volontario. In tutte le istituzioni scolastiche statali, la frequenza della scuola dell'obbligo non può che essere gratuita, mentre per le sole classi quarta e quinta della scuola secondaria di secondo grado, fatti salvi i casi di esonero, Essa è subordinata esclusivamente al pagamento delle tasse scolastiche erariali. Nessuna ulteriore capacità impositiva viene riconosciuta dall'ordinamento a favore delle istituzioni scolastiche. Qualunque somma, ulteriore alle tasse erariali e a quanto strettamente necessario per il rimborso delle spese sostenute dalla scuola per conto delle famiglie, può quindi essere richiesta soltanto quale contribuzione volontaria. E questo è un estratto della circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la quale si chiarisce una volta per tutti come, per tutte, come dovrebbe funzionare la questione del contributo scolastico, appunto chiesto da molte scuole. È volontario, non è obbligatorio, per cui le famiglie che non possono permettersi di pagarlo possono non pagarlo, per l'appunto. Tra l'altro c'è un ascoltatore che ci scrive al liceo, in un liceo di Chivasso, Manolito, ci scrive su Facebook: mi hanno dato il bollettino per il contributo, io non l'ho pagato, ma non mi hanno chiesto nulla, anche perché non riuscirò a pagarlo. Devo riconoscere che però in segreteria mi è stato detto proprio questo, che è volontario, io non posso pagarlo e di conseguenza non lo pagherò, per l'appunto. Dottoressa Lucrezia Stellacci, capo dipartimento istruzione per il MIUR, Ministero Istruzione, Università e Ricerca, buongiorno e grazie per la sua partecipazione. Buongiorno e grazie a voi. Allora, abbiamo ripercorso un po' tutto l'accaduto delle ultime settimane e con tutta la comprensione del mondo, che sta diventando una situazione un po' spiacevole, appunto quella che si sta creando in qualche scuola, soprattutto nelle modalità con cui le scuole esercitano la loro pressione su studenti e su famiglie. Voi avevate già emanato una circolare molto dettagliata il 20 marzo dello scorso anno. Quest'anno ci siete dovuti ritornare anche grazie al lavoro di Daniele Grassucci, che è stato tra l'altro riportato da un reportage molto dettagliato delle Iene e quant'altro. Allora, il tema è: non sfugge il fatto che le scuole abbiano bisogno di queste risorse e questo è pacifico. Il tema è che però, se in questo momento di difficoltà le famiglie non ce la fanno, il Ministero ha dovuto intervenire dicendo: anche voi scuole non siate insistente oltre ogni misura. Certo, certo. E ci sono anche altri modi per poter chiamare le famiglie e anche gli altri soggetti del territorio e coinvolgerli ad aiutare la scuola in questo difficile momento, senza però obbligare nessuno, perché l'unico obbligato a garantire i servizi è lo Stato. Ecco, senta, nella vostra circolare, oltre ad aver puntualizzato questo fatto, non sfugge al nostro dipartimento che il contributo delle famiglie rappresenta una fonte essenziale per assicurare un'offerta formativa completa. Prima il presidente dell'associazione Presidi ci ha anche detto: qualora la famiglia fosse disponibile, avesse la capacità chiaramente di fare di dare questo contributo, la scuola però ha anche un compito molto preciso di dettagliare molto precisamente l'utilizzo di questo denaro e quindi fare un resoconto anche puntuale alle famiglie. Per un preside che invece non dà queste spiegazioni alla famiglia, possono essere sanzionati i presidi, dottoressa Stellacci? Beh, certo che possono essere sanzionati. Nell'ultimo contratto dei dirigenti scolastici esiste proprio un codice disciplinare, quindi prima mancava questa possibilità, invece adesso c'è una responsabilità disciplinare ben definita nel contratto collettivo nazionale dei dirigenti scolastici. Però senza arrivare a questi eccessi. Noi infatti abbiamo chiesto ai revisori dei conti di guardare perché ogni scuola, ogni istituzione scolastica autonoma ha due revisori dei conti che approvano, o meglio danno i pareri favorevoli o contrari all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi e esercitano anche un potere di verifica su tutte le procedure. Abbiamo chiesto a loro di verificare come si è svolto la campagna di raccolta e poi se sono state date spiegazioni alle famiglie per le azioni che sarebbero state finanziate con questi contributi e quindi come sono stati gestiti questi fondi anche nella trasparenza del bilancio e quale rendicontazione alla fine sia stata data nel consuntivo annuale. Quindi credo che senza dover arrivare alle sanzioni disciplinari, penso che questo intervento dei revisori dei conti servirà a rendere più chiare tutte le procedure. Quindi questa è la modalità con cui il Ministero sta gestendo anche tutte queste segnalazioni di irregolarità che arrivano da parte, tra l'altro vi arrivano dalle famiglie, dottoressa Stellacci, o da chi altro? Eh sì, certo. soprattutto dalle famiglie, anche se adesso dopo la circolare vedo che molti presidi, molti segretari di scuole mi stanno scrivendo, mi stanno dicendo, rappresentando le ragioni per cui hanno dovuto ricorrere a questo strumento. Ripeto, il fatto che le famiglie contribuiscono ad andare oltre quelli che sono i livelli essenziali delle prestazioni obbligatorie per lo Stato e lo facciano con convinzione perché credono nel processo di formazione dei propri figli, è bellissimo, però bisogna spendere tempo ed energie per convincerli su questo versante, certo, e non obbligare. Dottoressa Stellacci, la ringrazio per averci dato qualche minuto del suo tempo, perché so che l'abbiamo tirata fuori da un altro impegno che aveva, sì, questa mattina. La ringrazio, buona giornata. Grazie a voi per l'informazione che date, arrivederci. Grazie molte. Tra l'altro, Daniele Grassucci, ritorno da te perché l'intervista alla dottoressa Stellacci che tu hai realizzato, l'intervista video, e so che tu sul tuo portale scuola.net con la K suggerisci anche alle famiglie di portarsi questo contributo a scuola, proprio per trasmettere ai presidi un po' più problematici nell'atteggiamento questi messaggi che ha dato la dottoressa Stellacci questa mattina. Questo è lo scopo, insomma, di farla vedere, appunto, di dare alle famiglie uno strumento, perché il problema è proprio questo, le famiglie non riescono a capire a chi rivolgersi in caso di problemi, quindi noi da anni stiamo portando avanti proprio tutta una serie di iniziative informative, ma anche di sostegno. Io personalmente rispondo ad almeno, nell'ultimo periodo, ad almeno una decina di mail ogni giorno di famiglie che mi chiedono come devono comportarsi, quindi ecco, noi in questo senso stiamo cercando, con la collaborazione anche del Ministero, di fornire alle famiglie tutti i contributi informativi necessari, dando sempre quello che è un messaggio positivo, cioè la scuola è una comunità, la scuola è un servizio, la scuola è un investimento, certo, quindi tutti dobbiamo sentirci partecipi di questa comunità, di questo servizio. Daniele, hai sentito quello che ci diceva l'ascoltatrice di Treviso all'inizio della trasmissione? Non so se è stato il momento in cui abbiamo ripristinato. Ecco, voleva sapere, non è che per caso dice sul preside di Treviso vi siete sbagliati e la richiesta che lui faceva era quella proprio relativa al pagamento della tassa obbligatoria per iscriversi a scuola? Mi pare che tu abbia sentito questo preside? Sì, io ho parlato con il preside, ho parlato con le famiglie. La questione chiaramente è molto complicata. Il preside infatti ha convocato questa riunione e mi ha confermato ed erano 80 ragazzi che sono stati presi dalle classi e portati in aula magna durante l'orario scolastico. Per il preside lo scopo della riunione era quello di far capire a questi ragazzi che c'erano dei problemi sulla loro domanda di iscrizione in quanto incompleta ed essendo scaduti i termini, quindi lui teneva a regolarizzare la cosa. Però ecco, poi quindi non avendo il versato, il contributo scolastico teoricamente volontario, lui addirittura diceva la vostra iscrizione è incompleta, pertanto non so se posso passare a quella per il prossimo anno. Sì, e questo è quello che ci hanno detto i ragazzi. Quindi da una parte il preside dal suo punto di vista ha espresso il fatto che lui ha semplicemente ricordato ai ragazzi di regolarizzare la procedura di iscrizione, il che è legittimo. Dall'altra però il messaggio che è arrivato alle famiglie è stato quello di minacce. Allora io non ero presente, quindi non posso sapere esattamente cosa è stato detto, però parlando col preside effettivamente questa riunione c'è stata, quindi effettivamente i ragazzi nell'orario scolastico sono stati prelevati dalle classi per un colloquio con il dirigente scolastico e due di questi ragazzi hanno riportato i loro genitori di essere stati minacciati. Sono arrivate due segnalazioni distinte nello stesso giorno e da due famiglie diverse. Quindi poi ecco, una famiglia ci ha riportato che il preside ha minacciato una sospensione, un'altra non l'ha riportata in questi termini, però ecco, io mi pongo sempre il problema da operatore della comunicazione sulla comunicazione, ovvero ci dobbiamo, se il preside dice A e alle famiglie arriva B, c'è un qualche problema che può essere le famiglie, può essere il preside, però sicuramente bisogna andare ad indagare sulle modalità comunicative. Mi ricorda un po' quelle situazioni che si creano in molte scuole anche materne, dove le famiglie che non possono permettersi di pagare la retta per la mensa, bambini che non vengono fatti mangiare, voglio dire, adesso non voglio arrivare a questo estremo, però anche la situazione in cui queste decine di ragazzi sono stati messi in quella mattina, voglio dire, anche lì no, proprio sulla modalità veramente è tutto molto discutibile. Allora ci fermiamo un attimo, no, però voglio sentire forse un'altra ascoltatrice, ce la faccio. Giulia da Roma. Giulia, buongiorno. Buongiorno. Io ho un ragazzo di 16 anni che è iscritto qua vicino casa a un istituto alberghiero e sono stata costretta a pagare 300 euro perché era indispensabile, altrimenti non l'avrebbero iscritto a scuola. Ah, quindi è proprio stato molto esplicito in sì, questo sì, caso? Sì, non avrebbe accettato l'iscrizione, quindi ha detto vi faccio il nulla osta e vi mando in un'altra scuola. Io ho fatto anche i conti. Ma la scuola, altre scuole, sempre ovviamente alberghiere, mi chiedevano 200 euro e un'altra 150. Ho fatto i conti con l'autobus, perché questa dove sono adesso è la più vicina. E là, con la tessera dell'autobus sarebbero comunque arrivati a cifre altissime, quindi ho acconsentito, ho pagato i 300 euro. E le adesso... hanno spiegato, Giulia, che cosa serviranno questi 300 euro? Perché un altro punto fondamentale è questo. Lei deve comprare, la preside deve intanto pagare il riscaldamento, ha detto, perché io sono andata poi a parlare con la preside, è stata molto disponibile, dice che lei c'ha il riscaldamento da pagare, c'ha tutti gli alimenti con cui i ragazzi devono fare le esercitazioni scolastiche, perché sono, dovranno diventare cuochi, eccetera, eccetera, camerieri, quindi ci sono tutti... i materiali che devono usare, e quindi ha, così ha detto, io non ho soldi dal ministero e se non me li date voi io non so proprio come va andare a far andare avanti la scuola. Infatti anche qua ovviamente certo che la modalità anche di tetto massimo 300 euro di quelli che abbiamo sentito fino a questo momento, comunque una preside molto disponibile che si arrende e dice ragazzi purtroppo io devo fare così, altrimenti non posso neanche ammetterli i ragazzi a scuola. Ancora un altro ascoltatore, perché questa mattina mi piace sentire quante più testimonianze possibili. Nico da Bari, in questo caso un papà, buongiorno, figlio iscritto al liceo scientifico, lì com'è andata? Buongiorno. Buongiorno. Allora, niente, in pratica ci è stato chiesto un contributo liberale di 100 euro. Mm-hmm. E naturalmente i ragazzi hanno chiesto quale dovesse essere l'utilizzo di questo contributo. Mm-hmm. Ed è stato detto che sarebbero serviti per i vari PON, corsi in genere, per le materie che loro insomma stanno studiando in questo momento. Mm-hmm. Il discorso è che questi PON non sono stati fatti poi, né l'anno scorso e manco quest'anno. Sai che non ho capito di cosa sta parlando, Nico? Perché cosa servivano questi soldi PON? Ho capito qualcosa del genere. Per i PON, sì. Ma che cosa sono, mi scusi? Sono dei corsi... Dove, adesso insomma, magari Daniele me lo spiega. Di alcune materie. Ho capito. E però lei dice, insomma, queste in realtà sono andate a babbo morto questi soldi, almeno per quello che ne so io. Grazie Nico. Marco da Verona, rapidissimo, poi completiamo con Grassucci, Luca De Stefani e Rembado. Marco. Sì, buongiorno. Niente, voglio dare anche la mia testimonianza, che mio figlio fa la seconda superiore in un liceo di Verona e mi hanno chiesto 170 euro, ho telefonato in segreteria e mi hanno detto è obbligatorio perché è stato deliberato dal consiglio d'istituto. Io ho detto guardi, io ho quattro figli, ho un reddito, lavoro nel privato, quindi non so se sono a casa domani, perché con la crisi che c'è non si sa, e ho detto guardi, ho un reddito basso anche, non è, sono un dipendente, e ho detto guardi, io sono disponibile a dare qualcosina, ma non 170 euro perché non ce la faccio. Ho dovuto fare una dichiarazione scritta al preside di dire che io do 50 euro più le spese, le tasse scolastiche, perché se no non mi scrivevano il figlio in pratica, perché il giorno 28, anche se mio figlio ha ritardato, il giorno 28 che c'era la scadenza l'ultimo giorno utile, esatto, ha portato l'iscrizione, gliel'hanno rifiutata, dicendo che non c'era il versamento. Dopo è andato altre due volte e gliele hanno rifiutato ancora. Allora ho telefonato e mi hanno detto guardi, ci faccia questa dichiarazione di 50 euro almeno quella, e dopo così mi hanno accettato l'iscrizione del figlio. Grazie Marco, grazie molte anche a lei. Qua hai voglia la dottoressa Stellucci a firmare circolari per conto del ministero. Mi pare che qua la situazione in Italia sia totalmente al contrario rispetto a quello che ha, che è nella percezione del ministero stesso. Detto questo, magari arricchiremo il dossier del ministero con la nostra trasmissione. Luca De Stefani, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, 100, 200, 300, le famiglie in che maniera possono fiscalmente almeno come dire trasformare in termini utili questa cifra che versano, ecco? Certo, questi importi versati, questi contributi volontari possono essere detratti dalla propria dichiarazione di redditi al 19%. L'importante è che nella ricevuta di pagamento che viene rilasciata dalla scuola siano indicate le finalità di questo contributo, che devono essere l'ampliamento dell'offerta formativa, l'innovazione tecnologica o l'edilizia scolastica. Mm-hmm. È importante poi che i nostri ascoltatori facciano questi pagamenti non in contanti, ma per ottenere la detrazione del 19% attraverso assegni bancari o circolari carte di credito, bancomat, carte prepagate o bonifici bancari o postali. Quindi anche se la scuola rilascia una regolare ricevuta, ma la famiglia paga in contanti, in quel caso non può fare la detrazione? Purtroppo no, la norma modificata nel 2007 ha introdotto questa agevolazione nuova, però ha limitato la possibilità di detrazione a pagamenti tracciati e non in contanti. C'è una ascoltatrice che ci scrive a salvadanaio@radio24, Ilaria: affinché le famiglie lo possano detrarre questo contributo, è necessario che venga pagato dai singoli o è valida anche la ricevuta di pagamento collettiva unitamente alla dichiarazione rilasciata dalla scuola? De Stefani. Collettiva si intende marito e moglie che fanno hanno un contratto. Infatti qua bisognerebbe capire che cosa vuol dire una ricevuta di pagamento collettiva. Certo, non vi è nessun problema se il conto corrente è cointestato, quindi la ricevuta del bonifico è cointestato ai due coniugi, è possibile o dividere la detrazione in due oppure indicare all'interno delle ricevute lasciate dalla scuola il nome del soggetto che si ritiene che abbia sostenuto la spesa, anche se il conto corrente era cointestato. Grazie a Luca De Stefani per queste pilloline di natura fiscale. Volevo andare rapidamente ad Anna Maria dalla provincia di Torino, perché vedo che ha un'altra bella testimonianza, per poi andare appunto alla conclusione della nostra trasmissione. Prometto che la permetto molto esaustiva alle preside Rembado. Anna Maria, buongiorno. Buongiorno. Senta, io sono un'insegnante e la mia preside preparava degli elenchi dalla segreteria con i ragazzi che non avevano pagato la quota, la dava agli insegnanti dicendo loro di richiedere la quota. Chi come me si rifiutava, allora faceva in quel modo. Oltretutto anche lei un'insegnante ben consapevole anche delle difficoltà economiche in cui il mondo della scuola vive. Per cui assolutamente nulla proprio. Li chiamava uno a uno minacciandoli alla presenza di una collega, sua amica, in modo che se i ragazzi avessero fatto denuncia, c'era la testimonianza di un'altra insegnante che non era vero, e quando un gruppo di insegnanti ha detto questa è una violazione della privacy, facciamo un esposto, lei ci ha risposto, il mio capo, cioè l'ex provveditore, insabbierà qualsiasi esposto nel merito. Cioè quindi c'era una minaccia di essere denunciati al provveditorato? Noi mobbing nei confronti della preside, perché però volevamo denunciare questo sistema. Proprio qua siamo arrivati ad una sofisticazione eccellente. Anna Maria, grazie anche a lei per la sua testimonianza. Preside Rembado, vengo a lei per la conclusione. Abbiamo un paio di minuti di tempo, ma mi sembra doveroso appunto, perché adesso non vorrei aver dipinto chiaramente è scattato una fotografia chiaramente delle più terribili, però chiaramente dovevamo raccogliere per forza le testimonianze più problematiche, no? Lei ne converrà. Che cosa dobbiamo fare come mamma e papà, anche se io per la verità sono solo una zia? Anche la zia delle responsabilità. Quando diventeranno grandi, magari contribuirò anch'io all'educazione dei miei nipoti. Certo, sì. Certo. Ma guardi, abbiamo sentito, ovviamente in queste raccolte di testimonianze si sentono solo i casi negativi, ne abbiamo sentiti 5, 6, 7, 8, non li ho contati, ripeto, nei 7 milioni e mezzo di iscritti alla scuola italiana capisce che sono una goccia nell'oceano. Abbiamo sentito anche, però per passare a qualcosa di più propositivo, io direi una cosa, abbiamo sentito nel negativo tutta una serie di situazioni fai da te, che sono tutte condannabili, quindi è inutile che le ripercorra una per una. Il problema però è anche quello che non è stato detto quando si è parlato del Ministero, e concluderei con questi due aspetti non irrilevanti. In primo luogo il Ministero non può lavarsi le mani del problema della pauperizzazione degli istituti scolastici, nel Ministero, nello Stato. Le faccio un esempio: quando si è parlato di digitalizzazione necessaria e da tutti riconosciuta come tale dei vari servizi delle scuole, si è anche detto da parte del legislatore che tale digitalizzazione doveva avvenire senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Ora, questo altro che nozze con i fichi secchi, ovviamente, e questo è solo un esempio naturalmente, perché questo tipo di modello comunicativo da parte dello Stato e del Ministero lo si può riflettere e riprendere su qualsiasi altro problema analogo. Devo chiudere fra 30 secondi, preside Rembado, una 30 conclusione. 30 secondi. Il Ministero deve svolgere tutto il suo ruolo, che è quello sì di soggetto di indirizzo, ma anche di struttura di servizio delle autonomie scolastiche. E concludo col dire che poi il Ministero ha tutti gli strumenti di verifica e di controllo e anche quelli punitivi nel caso di situazioni che non siano corrette e non conformi estreme, a norme. Direi. Grazie al preside Rembado, a Daniele Grassucci per essere stato con noi, a Luca De Stefani, a dottoressa Lucrezia Stellacci. Salvadanaio termina qui. Salvadanaio che non ha salutato, forse è stata l'unica trasmissione, il nuovo pontefice Francesco, che a noi piace molto, devo dire la verità, a me emana una grande tenerezza questa figura. Quindi grazie a tutti, ci sentiamo, sì, domani, credo sia venerdì, abbiamo un'altra puntata di Salvadanaio. Buona giornata a tutti.